soka mapaya ya bagyoko Moto ni aso ya soya lenge la vende vna ye Moninga lelo wako meka Ona nininga itema Suka suka ele oleli mamaga Kolinga te moninga zwaka sima apesa yo Salama kasi yo zwaka elo kola ye Lobi na lobi atika kopenga yo malolege Semboka mopaya ya bakoko Moto ni oso ya seya lenge la venirna ye Moninga lelo wako meka Kola nininga itema Kola nininga itema Amaha Kola nininga inazua kate bapangie Maninga tokola na bango bazu abo mega Maninga tokola na bango bakoma bato ya mbogo Kola nininga itema Amaha Semboka mopaya ya bakoko Moto nyoso ya seya lenge la venirna ye Moninga lelo wako meka Kona nininga itema Suka suka ele oleli mamaga Kolinga te moninga sala kasima yela yo Sangolo zaku yeye sangolo zaku Sangolo zaku yeye sangolo zaku bandeko Semboka mopaya ya bakoko Moto nyoso ya seya lenge la venirna ye Moninga lelo wako meka Kona nininga itema Sangolo zapwe, sangolo zapwe, wangao, sangolo zapwe, sangolo zapwe. zola sangolo sangolo zape sangolo zape urayume sangolo sangolo zape sangolo zape sangolo zape sangolo zape sangolo zape sangolo zape sangolo zape sangolo zape tifi sangolo zape sangolo zape matuti sangolo zape sangolo zape igmar sangolo zape sangolo zape Sangolo zakwe, sangolo zakwe, sangolo zakwe, sangolo zakwe, sangolo zakwe, sangolo zakwe, sangolo zakwe, sangolo zakwe,